Sezione prima della Divina Commedia, Il Paradiso. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Letto da Pierre. La Divina Commedia, Il Paradiso di Dante Alighieri, canto primo. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra e risplende, in una parte più e meno altrove. Nel ciel che più della sua luce prende, fu io, e vidi cose che ridire né sa né può qual di lassù discende. Perché, appressandosi al suo disire, nostro intelletto si profonda tanto che retro la memoria non può ire. Veramente, quant'io del regno santo nella mia mente potei far tesoro, sarà ora materia del mio canto. O buono Apollo, all'ultimo lavoro fammi del tuo valor sì fatto vaso come dimandi a dar l'amato all'oro. Infine a qui l'un giogo di Parnaso assai mi fu, ma or con amendue me uopo entrar nell'aringo rimaso. Entra nel petto mio, espira tue, sì come quando Marsia traesti della vagina delle membra sue. O divina virtù, se mi ti presti tanto che l'ombra del beato regno segnata nel mio capo io manifesti, venir vedrami al tuo diletto legno e coronarmi allor di quelle foglie che la materia e tu mi farai degno. Si rade volte, padre, se ne coglie per trionfare o Cesare o poeta, colpa e vergogna dell'umane voglie, che partorir letizia in sulla lieta delfica deità dovria la fronda penea quando alcun di sé asseta. Poca favilla, gran fiamma seconda, forse di retro a me con miglior voci si pregherà perché Cirra risponda. Surge a mortali per diverse foci la lucerna del mondo, ma da quella che quattro cerchi giugne con tre croci, con miglior corso e con miglior stella, esce congiunta e la mondana cera più a suo modo tempera e suggella. Fatto avea di là mane e di qua sera tal foce quasi, e tutto era là bianco quell'emisperio e l'altra parte nera, quando Beatrice in sul sinistro fianco vidi rivolta e riguardar nel sole. Aquila sì non gli s'affisse un quanco, e sì come secondo raggio suole uscir del primo e risalire in suso, pur come peregrin che tornar vuole. Così dell'atto suo, per gli occhi infuso nell'immagine mia, il mio si fece, e fissi gli occhi al sole oltre a nostruso. Molto è licito là, che qui non lece alle nostre virtù, mercè del loco, fatto per proprio dell'umana specie. Io non soffersi molto, né sì poco ch'io non vedessi sfavillar d'intorno qual ferro che bollente esce del fuoco. E di subito parve, giorno a giorno, essere aggiunto, come quei che puote avesse il ciel d'un altro sole adorno. Beatrice, tutta nelle eterne ruote fissa con gli occhi stava, ed io in lei le luci fisse di lassù rimote. Nel suo aspetto tal dentro mi fei, qual si fe Glauco nel gustar dell'erba, che il fe consorto in mar degli altri dei. Trasumanar significar per verba non si poria, però l'esempio basti a cui esperienza grazia serba. S'io era, sol di me quel che creasti novellamente, amor che il ciel governi, tu l sai che col tuo lume mi levasti. Quando la ruota, che tu, sempiterni desiderato, a sé mi fece atteso, con l'armonia che temperi e discerni, parvemi tanto allor del cielo acceso dalla fiamma del sol che pioggia o fiume lago non fece mai tanto disteso. La novità del suono e il grande lume di lor cagion m'accesero un disio mai non sentito di cotanto acume, ond'ella che vedea me sì com'io ad acquetarmi l'animo commosso, pria ch'io a dimandar la bocca aprio, e cominciò: tu stesso ti fai grosso con falso immaginar, sì che non vedi ciò che vedresti se l'avessi scosso. Tu non sei in terra sì come tu credi, ma folgore, fuggendo il proprio sito, non corse come tu cadesso riedi. S'io fui del primo dubbio disvestito, per le sorrise parolette brevi, dentro ad un nuovo più fui irretito, e dissi: già contento requievi di grande ammirazion, ma ora ammiro com'io trascenda questi corpi lievi. Ond'ella, appresso d'un pio sospiro, gli occhi drizzò ver me con quel sembiante che madre fa sopra figliuol deliro, e cominciò: le cose tutte quante hanno ordine tra loro, e questa è forma che l'universo a Dio fa simigliante. Qui veggion l'alte creature l'orma dell'eterno valore, il quale è fine al quale è fatta la toccata norma. Nell'ordine, ch'io dico, sono accline tutte nature per diverse sorti, più al principio loro e men vicine, onde si muovono a diversi porti per lo gran mar dell'essere, e ciascuna con istinto l'hai dato che la porti. Questi ne porta il fuoco inver la luna, questi ne cuor mortali promotore, questi la terra in sé stringe da d'una, neppur le creature che son fuori d'intelligenza quest'arco saetta, ma quelle c'hanno intelletto ed amore. La provvidenzia, che cotanto assetta, nel suo lume fa il ciel sempre quieto, nel qual si volge quel ch'ha maggior fretta. Ed ora lì, come assito decreto, c'è in porta la virtù di quella corda che ciò che scocca drizza in segno lieto. Vero è che come forma non s'accorda molte fiate all'intenzion dell'arte, perché a risponder la materia è sorda, così da questo corso si diparte talor la creatura, ch'ha podere di piegar, così pinta, in altra parte. E sì, come veder si può cadere fuoco di nube, se l'impeto prima a terra è torto da falso piacere. Non dei più ammirar, sebbene stimo, lo tuo salir, se non come d'un rivo, se d'alto monte scende giuso a dimo. Maraviglia sarebbe in te, se privo d'impedimento giù ti fossi assiso, come a terra quieto fuoco vivo. Quinci rivolse in ver lo cielo il viso. Fine del canto primo.